Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione settimanale per vivere, pensare e agire cruelty free, l'unico format radiofonico che vi porta le voci, i fatti e le opinioni dalla galassia animalista, antispecista e vegan. E questa sarà la terza e ultima puntata che registriamo in trasferta. Siamo infatti ancora a Trieste, ancora negli studi di Radio Fragola. Anche questa puntata vogliamo dedicarla a due individui, un umano e un altro animale. L'umano è Wayne Lotter, ucciso a colpi di arma da fuoco nel distretto Masaki di Dar es Salaam, in Tanzania, il 18 agosto scorso. Wayne Lotter era un simbolo della lotta per la difesa degli animali in Africa. Aveva lottato duramente contro i bracconieri che uccidono gli elefanti e contro il traffico illegale di avorio. L'etologa britannica e rinomata ambientalista Jane Goodall aveva descritto Lotter come il suo eroe, un uomo che doveva affrontare dure opposizioni e minacce personali nel tentativo di proteggere la fauna selvatica della Tanzania. L'individuo non umano che vogliamo ricordare oggi è Kasatka, morta il 16 agosto scorso nelle vasche di SeaWorld, lontano dagli sguardi dei visitatori. L'orca aveva 42 anni ed era stata catturata nelle acque libere dell'Islanda nel 1978. Da allora viveva assieme ad altri 10 cetacei in piccole vasche, pronta ad esibirsi nei famosi show californiani davanti a 10 milioni di turisti ogni anno. Le orche in natura, lo ricordiamo, possono vivere fino a 80 o 100 anni, ma a Kasatka è stata praticata l'eutanasia dopo un'infezione polmonare che l'affliggeva da tempo. Si tratta della terza orca morta in un anno a SeaWorld, il famigerato zoo marino che il film Blackfish aveva denunciato per le condizioni di prigionia disumana in cui le orche sono costrette a vivere, allenarsi ed esibirsi. Molte di loro soffrono di disturbi psichici e si muovono in tondo, in modo stereotipato, nelle piccole vasche per lo stress e la depressione da cui sono afflitte. L'ex addestratore di Kasatka, che per 14 anni ha lavorato a SeaWorld, ha definito il parco californiano una vergogna per l'umanità. L'hashtag che vi proponiamo è Boycott SeaWorld. Thank you. dicevamo in apertura, siamo a Trieste, dove stiamo trascorrendo una lunga trasferta estiva, e oltre agli amici di Radio Fragola ci sono altre realtà interessanti che ci piace segnalare in questa particolare città sul confine orientale del nostro paese. Quella alla quale siamo più legati e che seguiamo da anni è l'associazione Liberi di Volare, un'associazione che si occupa, pensate, esclusivamente al recupero, alla cura e alla riabilitazione dei rondoni, rondini e balestrucci, animali che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare grazie alla dedizione e alla inesauribile energia e comunicativa di Silvana Di Mauro, triestina di adozione con un marito australiano, cuore e testa del centro più specializzato d'Italia su queste specie. Troverete il podcast di un servizio sul centro Liberi di Volare nel nostro blog datato 20 maggio 2017, ma oggi vi proponiamo la storia di una liberazione, una bella storia che riguarda il balestruccio chiamato Giuseppina, a cui abbiamo avuto la fortuna di assistere. Ecco per voi l'audio racconto. Ero con mio collega sul lavoro nel comune di Doberdò del Lago, qua in Friuli Venezia Giulia, e davanti alla porta della centrale termica mi sono trovato questa piccola, che io pensavo fosse una rondinella, che poi mi hanno detto che è un balestruccio. Stava lì ferma per terra, l'ho presa e niente, mi ha fatto subito pena, era così piccola. Dentro di me mi sono detto: se la lascio qua va a finire in pasta ai gatti. E allora ho detto: vediamo se si riesce a trovare un posto dove portarla, no? Chissà dove sarà una sede che accolgono uccellini. E c'era scritto a Trieste, noi siamo a 50 km da qua, e alla fine abbiamo deciso di portarla per farla vivere. Ci siamo detti: portiamola subito, insomma, comunque una vita è un peccato, no? E niente, poi gli abbiamo chiesto appunto se ci facevano sapere quando la liberavano, perché io poi ho 2 figli e quindi sì, ho detto: approfitto, è una bella esperienza, insomma. Ci hanno contattati, siamo venuti e adesso attendiamo, insomma, la liberazione. Siamo arrivati nel luogo in cui libereremo questo balestruccio. Sì, trovato da Giorgio. C'è Giorgio oggi, ci sono i suoi ragazzi. Hanno dato il nome di Giuseppina. Poi ci spiegheranno il perché. È un nome simpatico, fantastico, ecco. Quanto tempo è stato con voi? E adesso saranno più di 20 giorni che è con noi, il tempo di crescere. Era piccina e non poteva andare Giuseppina. Non aveva delle patologie, era solo piccola? No, era solo caduta dal nido, caduta giù. È planata, ha avuto la fortuna di trovare Giorgio, che l'ha raccolta e l'ha portata al nostro centro di recupero. E oggi c'è Giorgio, Francesco e Cristian. Bello vedere da vicino sempre gli uccelli. Cosa faremo adesso? La guarderemo andare via. I balestrucci, quando sono giovani, vanno comunque liberati dove ci sono colonie di balestruccio, perché il balestruccio, a differenza del rondone, ha bisogno di un adulto che lo accompagni durante la migrazione, e quindi ha bisogno di una famiglia, di far gruppo. Mentre il rondone può andare via anche da solo, il balestruccio invece necessita, come la rondine se giovane, di essere liberato dove proprio ci stanno altri balestrucci. Per la partenza saranno più organizzati e saremo più sicuri che arriveranno anche loro a destinazione. Ecco, loro arrivano in Centro Africa. Pensate, lui pesa 22 grammi. Per 22 grammi un viaggio così lungo, ma per lui sono più che buoni, sono ottimi. Ecco, anche i balestrucci e le rondini, poi, a differenza del rondone, si possono anche fermare nei canneti. Hanno, come dire, degli autogrill dove loro riposano e poi ripartono il giorno dopo, perché il balestruccio può scendere per terra, a differenza del rondone, e può ripartire da terra. Allora, ci sono gli amici che aspettano, siamo pronti, vediamo Giuseppina, io apro la scatolina, vediamo cosa fa Giuseppina. Ecco Giuseppina, eccola, visto? Bene. Ha volato benissimo, senza nessun problema, infatti ho aperto la scatola e è andata via tranquillamente. E adesso vedrete, eccola, vedete? Sì. Ci sono gli altri che vanno a salutarla, ecco, vengono, visto? Eccoli. Ecco, un gran numero di balestrucci sono spuntati. Improvvisamente, perché vedono il nuovo arrivo e poi lo accoglieranno nel nuovo giro. Ecco, questa sarà Giuseppina, perché adesso stanno facendo pubbliche relazioni. Chi sei? Benvenuto nel nostro gruppo. Che bel posto qui, si mangia tanto bene, un ottimo ristorante. No, perché qui di insetti ne hanno a bizzeffe. Ecco, il prossimo anno Giuseppina tornerà qui, perché partono e tornano sempre da dove partono. Bellissimo, bellissimo. Il senso di libertà, dell'amicizia, anche come i ragazzi che vanno in discoteca, incontrano gli amici, centri di aggregazione, insomma, anche punti di ristoro, centri di aggregazione per creare gruppi e partire, ecco, no? Quando gli adulti decideranno di partire, i giovani li seguiranno, stazioneranno ancora qui finché il tempo è bello, possono stare qui anche fino a ottobre. Quindi lui non partirà subito, a differenza del rondone, ma lui creerà il suo gruppo, il suo giro, e poi quando gli adulti si muoveranno, perché l'adulto insegna la rotta. Bellissimo, no ragazzi? Sì, sì. Oggi delle belle liberazioni. Sono stato contento. Siete contenti ragazzi? Sì. Non capita tutti i giorni di vivere emozioni così particolari. Uccelli volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. L'attualità ci porta alle notizie di pericolosissimi e spesso mortali viaggi di tanti umani che da altri continenti scelgono senzientemente il rischio di attraversare il Mediterraneo con ogni mezzo in cerca della possibilità di una vita migliore in Europa. Viaggi ai quali facciamo di tutto per sbarrare la strada, ma oggi vogliamo darvi conto di altri viaggi devastanti, di altre specie che certo non hanno scelto di spostarsi in direzione contraria. Quasi 3 milioni di animali sono esportati ogni anno dall'Europa verso i paesi arabi in condizioni spaventose. Questo è il risultato di un'investigazione durata 3 anni che è stata pubblicata in anteprima dal quotidiano francese Le Monde, condotta da 2 associazioni, la tedesca Animal Welfare Foundation e la svizzera Tierschutzbund Zurich, tra luglio 2014 e gennaio 2017. I risultati di questa investigazione ci dicono che dal 2013 al 2016 9,8 milioni di pecore e bovini hanno attraversato il Mediterraneo da porti dell'Unione Europea diretti verso Nord Africa e Medio Oriente. Gli animali partono principalmente da Sète in Francia, Tarragona e Cartagena in Spagna, Midia in Romania o Rasa in Croazia e raggiungono poi, dopo estenuanti viaggi, la Turchia, il Libano, Israele, Marocco, l'Algeria, la Libia e l'Egitto. Un commercio marittimo in piena espansione ma non regolamentato e praticamente non controllato. Foto e video mostrano innumerevoli violazioni dei minimi standard di sicurezza degli animali. Rampe di carico e scarico troppo inclinate, ventilazione e illuminazione a beveraggio insufficienti, lettiere inadeguate, sovraffollamento. Il tutto su vecchissimi battelli per il trasporto di animali con un'età media di circa 35 anni. A bordo non vi è alcun responsabile del benessere, diciamolo tra virgolette, animale, né un veterinario, né un registro dei decessi, che sono frequentissimi. In caso di malattia grave o morte, l'animale viene eviscerato perché affondi più rapidamente e viene gettato in mare senza tanti convenevoli. Naturalmente si ha cura di strappar via i marchi di identificazione nel caso in cui la carcassa dovesse arrivare sulla costa. Assieme alle migliaia di corpi di migranti, quindi sul fondo del Mediterraneo, tra il 2013 e il 2016, secondo le stime di queste serie associazioni, giacerebbero circa 24.000 animali da reddito, tra virgolette, sempre. Nonostante queste evidenze, né la Commissione europea né gli Stati membri intervengono, dal momento in cui si sa che quegli animali non finiranno nei nostri piatti, la loro sorte non interessa praticamente più a nessuno. If wines could be human cries, closer comes the screaming knife. This beautiful creature must die. Yeah, this beautiful creature must die. A death for no reason, and death for no reason is murder. And the flesh you so fancifully fry, it's not succulent, tasty or kind. It's death for no reason, and death for no reason is murder. And the cuff that you cut with a smile is murder. And the turkey you festively slice is murder. Do you know how animals die? Come sappiamo, è il momento più duro per i cani e i canili. Gli abbandoni aumentano, le adozioni calano drasticamente. Tempo di vacanze, le persone hanno altre cose per la testa. Sono innumerevoli e strazianti gli annunci di animali in cerca di adozione che inondano le chat, le bacheche di chiunque si interessi della questione animale a qualsiasi livello. È un fenomeno ovviamente più visibile in estate, ma che in realtà dura 12 mesi l'anno, e ad alimentare questa marea di animali che sembra non esaurirsi mai è anche il traffico illegale che porta in Italia animali da altri paesi, paesi in cui le regole e i controlli permettono di rischiare molto di meno. Su questo spinoso tema vi proponiamo un servizio a cura della nostra Roberta Marino, che ha intervistato per noi Alessandro Piacenza dell'OIPA. Si può tracciare una sorta di mappa, quelle che sono le zone maggiori di provenienza di questi cuccioli e le zone di sequestro, soprattutto rispetto alla vostra esperienza come guardie zoofile ovviamente. Cani provenienti dai paesi dell'est, quindi Ungheria, Romania, quindi sono questi i principali, diciamo, paesi di partenza, quindi principalmente vengono fermati nelle regioni a confine, quindi parliamo di Friuli, però molto spesso se riescono a fuoriuscire dalle maglie del controllo Friuli possono arrivare anche fino a Caserta, fino a Lecce, perché abbiamo segnalazioni di traffico di cuccioli anche in Sicilia. Ed è un traffico che coinvolge soprattutto cani o anche altri animali, gatti e non solo? Per quanto riguarda i animali domestici parliamo principalmente di cani. Cani di razza piccola o cani di razza della moda di quel momento lì. Arrivano cani che sono sotto l'età prevista dalla normativa, quindi al di sotto dei 4 mesi, quindi più sono piccoli più c'è il fatto emozionale della persona incauta che preferisce acquistare online piuttosto che magari andare a verificare in un canile e parlare con gli esperti del settore, con educatore piuttosto che veterinari, per poter poi adottare un cane idoneo per loro. Invece lì preferiscono adottare e seguire, come è stato detto, appunto un acquisto emozionale, e quindi di conseguenza senza avere conoscenza della razza, e ovviamente passano più le razze Italia piccole per il semplice motivo che sono quelle più richieste, perché nei canili ormai non si trovano più cani di Italia piccola, e l'altro punto, più facilmente occultabili durante il trasporto. Invece rispetto ad altri animali, voi avete segnalazioni spesso, oltre gatti, ma anche altri animali esotici? Sì, beh, parliamo poi di un altro traffico, questo andiamo poi a coprire direttamente un'altra normativa, che è quella della CITES, che è a livello internazionale di tutela degli animali in estinzione. In quel caso lì arrivano poi segnalazioni anche di animali che sono un po' fuori dall'ordinario. Ovviamente parliamo di numeri inferiori al traffico di cani, di numero di cani o di gatti, ma parliamo di animali con un più alto valore economico. Pressoché poco disponibili, miscredenti e ortodossi, di aforismi perduti nel nulla. Quanto è grande la complicità degli allevamenti, ma anche la complicità, diciamo, sociale proprio della società in questo traffico? Ovviamente se non si alimentasse questo tipo di commercio bloccandogli gli acquisti, ovviamente avremmo risolto il problema dal punto di vista sociale ed etico e morale. Per quanto riguarda invece la complicità, sicuramente più che da allevatori parlo di commercianti eventualmente, piuttosto che di allevatori improvvisati. Abbiamo anche di cascine che si improvvisano stalli per animali, quindi di conseguenza c'è una complicità di persone che sono dediti a trarne un alto profitto e non hanno nessun rispetto per l'essere vivente. Le nostre guardie, durante un controllo in un negozio in Piemonte, hanno rilevato una fattura dove i cuccioli erano stati acquistati a 50 euro. Ovvio che poi se lo rivendiamo magari a 500, valutate voi quale può essere l'alto profitto, con un rischio anche minore per quanto riguarda i reati che possono essere contestati. Anche se adesso si incomincia a contestare spesso il reato di associazione a delinquere, piuttosto che truffa, piuttosto che altri reati più pesanti dal punto di vista diciamo del codice penale, quindi magari che si rischia qualcosetta di più. Beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. That's when I'm in. Mentre in Italia la Procura di Trento apre un fascicolo in relazione all'abbattimento dell'orsa KJ2 disposto dalla Provincia Autonoma di Trento, fascicolo in cui si ipotizza il reato di uccisione di animali senza necessità, vi diamo conto di una bella notizia. Siamo in Ucraina, dove Cristina, l'ultima orsa ballerina dell'Ucraina, è stata liberata dalla prigionia e dalla schiavitù in cui ha trascorso tutti i santi giorni della sua misera vita. Cristina infatti viveva dentro una piccola gabbia nel retro di un furgone, in viaggio tra circhi viaggianti e ristoranti nei quali veniva costretta in catene a esibirsi. Dava quindi spettacolo con la sua tristissima danza a ritmo di musica. L'associazione internazionale Four Paws, in collaborazione con le autorità ucraine, ha organizzato una missione di salvataggio la scorsa settimana, poco prima che Cristina si esibisse nuovamente a Ivao Frankove, nell'Ucraina occidentale. Dopo ore di tensione e un duro negoziato con il proprietario, che non aveva nessuna intenzione di cedere Cristina, la polizia ambientale ha deciso di confiscare l'orso, che è stato portato in sicurezza presso un rifugio di recente costruzione a Domazir, vicino a Lviv. Nel santuario Cristina sarà curata e monitorata fino a quando la corte confermerà il suo verdetto. Infatti al momento la confisca è solo temporanea. Carsten Hertwig, esperto di Four Paws, che ha portato Cristina alla sua nuova casa, ha affermato che l'orsa è stata collaborativa, ma che le sue condizioni non sono ideali. In un primo momento ha detto: abbiamo portato Cristina in un recinto coperto in modo che si potesse abituare sia al suo nuovo ambiente che ai nostri custodi, che hanno osservato da vicino il suo comportamento. suo secondo giorno hanno deciso di farla entrare in un recinto più grande e finalmente all'aperto. Cristina e un altro orso salvato all'inizio di quest'anno sono i primi abitanti della nuova struttura per orsi che in futuro fornirà rifugio a 30 orsi che sono stati precedentemente oggetto di abusi, trascuratezza o crudeltà. E pensiamo che KJ2, se proprio non doveva rimanere libera, poteva perlomeno essere inserita in una struttura come questa invece che venire barbaramente uccisa. Alla liberazione, del balestruccio Giuseppina, alla liberazione dell'orsa ballerina Cristina, che dedichiamo la ricetta della settimana. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Stando in tema di liberazione, mi suona in testa una canzone che parla di libertà, esortando chi l'ascolta a liberarsi dai propri limiti mentali. E ispirato al Redemption Song, la ricetta di oggi arriva direttamente dalla patria del compianto Bob Marley. Jamaican Patties. Gli ingredienti per 4 persone sono, per la pasta, 250 g di farina tipo 0, 50 g di farina di ceci, 125 g di margarina, 100 ml di acqua, un pizzico di curcuma in polvere, sale e olio extravergine. Per il ripieno, una costola di sedano, una cipolla, uno spicchio di aglio, del timo, 200 g di lenticchie, 2 pomodori freschi tagliati a pezzetti, 2 cucchiai di pangrattato, un cucchiaino di radice di zenzero macinata, un pizzico di paprika, un pizzico di cumino in polvere, un pizzico di coriandolo in polvere e un pizzico di curcuma in polvere, un peperoncino tipo abaniero, sale e pepe. In una terrina impastate le farine, la margarina, la curcuma e l'acqua a temperatura ambiente. Aggiungete un pizzico di sale e lavorate rapidamente fino ad ottenere una pasta liscia ed omogenea. Lasciatela riposare almeno 30 minuti in frigorifero avvolta nella pellicola. Nel frattempo preparate il ripieno. In un tegame fate scottare in poca acqua il sedano e la cipolla tritati finemente. Quando l'acqua sarà ben evaporata, unite l'aglio tritato finemente, il peperoncino, la curcuma, il cumino, il coriandolo, la paprika, il timo e lo zenzero. Aggiungete poco olio e lasciate soffriggere qualche minuto, quindi unite le lenticchie ed i pomodori, coprite di acqua, aggiustate di sale e pepe e lasciate ritirare. A fine cottura aggiungete il pangrattato e lasciate ritirare ancora fino ad ottenere un composto compatto. Stendete la pasta e realizzate dei cerchi di circa 10 cm di diametro. Mettete al centro un cucchiaino abbondante di ripieno e chiudete a mezzaluna, pressando i bordi con una forchetta. Spennellate con della curcuma sciolta in poca acqua, bucherellate la superficie per far uscire il vapore in cottura e infornate a 180 gradi per 25 minuti. E come tradizione vuole, menzioniamo chi ha collaborato alla produzione e alla messa in onda di questa puntata, ovvero Silvana Di Mauro del Centro Liberi di Volare, Alessandro Piacenza dell'OIPA, Dado e Lucia di Radio Fragola, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e la voce che vi ha accompagnati in questo viaggio, che è quella di Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.